GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da mezzogiorno è ripartito il trasporto pubblico in regione, dai bus ai treni. Il presidente della regione ha firmato la revoca dell'ordinanza che era legata al maltempo. Per la ripresa regolare del traffico ferroviario ci vorrà qualche ora. Alla Tisana la piena del Tagliamento sta passando in questi minuti, ha detto al sindaco il magistrato delle acque. Gli argini rimangono monitorati e tengono chiuso in via precauzionale il ponte tra la Tisana e San Michele. Varresia nuovamente isolata a causa di una frana sulla strada provinciale. Nel Pordenonese riaperto l'accesso a Clauzetto. Nelle Prealpi friulane, Forgaria, nel Friuli, alle prese con il ripristino della normalità dopo una notte di smottamenti e allagamenti. La parte peggiore di questa ondata di maltempo è passata, domani mattina si potrebbe anche vedere un po' di sole, ma nella notte tra sabato e domenica arriverà un nuovo fronte con molta pioggia ancora in montagna, questa volta soprattutto nella fascia orientale. Sequestrati 800 kg di droga dalla direzione distrettuale antimafia di Torino, sgominata una banda di marocchini che aveva un magazzino di stoccaggio anche a Pordenone e spacciava sulla piazza del Friuli Venezia Giulia. Trieste celebra la solennità di San Giusto Martire, patrono cittadino, nell'omelia del vescovo in cattedrale, attenzione ai giovani, specie a quelli disoccupati in cerca di valori, ha annunciato una preghiera interconfessionale per la pace domenica sul Molo Audace. Assegnato all'Università di Trieste nei 100 anni dalla fondazione il San Giusto d'Oro, riconoscimento dell'Assostampa, alla direttrice del Castello di Miramare, Andreina Contessa, la targa speciale. Angela Hewitt ha aperto con pagine da Mozart, Bach e Schumann la stagione della Fazzioli Concert Hall ieri sera a Sacile. Per il maltempo rinviata, data da destinarsi l'intitolazione del Teatro Comunale di Monfalcone, il successivo concerto che erano previsti per questa sera. Ancora buongiorno, ben ritrovati da Maria Spezia e Francesca Vigori. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha firmato la revoca dell'ordinanza con cui erano stati interrotti i servizi di trasporto pubblico locale, ferroviario e marittimo da e per i comuni interessati dall'allerta rossa maltempo. Pertanto il trasporto pubblico locale è stato ripristinato nella sua regolarità a partire dalle 12, ciò a seguito del progressivo esaurimento della perturbazione che interessa il Friuli Venezia Giulia. Per la ripresa regolare di tutto il traffico ferroviario ci vorrà ancora qualche ora, fanno sapere da Trenitalia. La decisione di revocare l'ordinanza fa seguito alla riunione del Comitato Regionale per l'Emergenza, COREM, che si è tenuto questa mattina presto. Il territorio ha retto alla forte ondata di maltempo, anche grazie alle opere di protezione realizzate a tutela del territorio e degli abitanti, ha detto l'assessore regionale alla protezione civile, Riccardo Riccardi, che nel corso della mattinata ha eseguito una serie di sopralluoghi nei posti più colpiti dall'ondata di maltempo. La Tisana potrebbe essere vicina alla fine della fase di preallarme per la piena del Tagliamento. In via precauzionale è stato chiuso al traffico il ponte sul fiume sulla statale 14 della Venezia Giulia. Il tratto nei pressi del confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia viene presidiato dal personale ANAS al fine di monitorare il livello del fiume e per la gestione della viabilità. Il quadro della situazione nella cittadina della Bassa Friulana. Ha raggiunto 9,50 m il fiume Tagliamento alla Tisana in questo momento. Dovremmo essere al colmo della piena, che è la più grande almeno dal 1996, a sentire i cittadini di questa località che sorge sul lato sinistro del fiume. Sul lato destro c'è invece la Veneta San Michele al Tagliamento. Questa mattina alle 8 il sindaco Lanfranco Sette ha ricevuto una modifica della previsione della piena all'insù da parte della protezione civile. Fino a, appunto, a quell'ora sembrava che dovesse passare il colmo senza destare troppa preoccupazione, poi invece è stato rivisto al rialzo la previsione di piena, e di qui l'invito ai cittadini a prepararsi a un eventuale ordine di evacuazione che al momento non è stato emesso e non si prevede, almeno a breve, che possa essere emesso. Però un'ora e mezza fa all'incirca è stato chiuso il ponte che collega appunto la Tisana con San Michele al Tagliamento, dunque le auto e anche i pedoni e anche coloro che vengono in bicicletta di qua e di là hanno dovuto trovare un altro modo per passare il fiume oppure hanno dovuto fermarsi. Questo perché il livello dell'acqua è molto molto vicino all'altezza appunto del ponte, e così per precauzione è stato deciso questo, alla presenza dell'assessore Riccardo Riccardi, responsabile della protezione civile per la giunta regionale. I latisanesi vivono questo periodo con relativa tranquillità, relativa calma, sono abituati a questo tipo di preallerte, anche se, ripetiamo, è il livello più alto mai registrato praticamente da 27 anni. Per il momento dalla Tisana è tutto. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è stata riaperta a senso unico alternato la statale 54 del Friuli, che era stata chiusa tra mezzanotte e le 5 del mattino tra Tarvisio e Cava del Predil a causa di una frana. In regione inoltre è in corso da ieri il monitoraggio da parte dei tecnici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, ANAS S.p.A., sulle altre statali. Aresia piove da oltre 24 ore in maniera ininterrotta. La valle è nuovamente isolata per una frana sulla provinciale, ma si spera di ripristinare i collegamenti nel pomeriggio. La situazione è frutto della combinazione tra gli effetti degli incendi di due estati fa e la pioggia di questi giorni. Nel 2022 il fuoco, oggi l'acqua. La Varresia si è svegliata nuovamente isolata, sono tornate le staffette per far uscire i residenti e permessi per potersi assentare dal lavoro. Le abbondanti precipitazioni hanno causato smottamenti e caduta massi sulla strada provinciale 42 che da Resiutta porta in valle. Poco prima dell'intervista al sindaco arriva una chiamata, è saltata anche la fornitura di energia elettrica. Anna Micelli, sindaco di Resia. Da stanotte, comunque, per garantire l'incolumità pubblica, abbiamo pensato alle persone soltanto di garantire il transito per chi ha necessità sanitarie, urgenti o programmate. Questa è l'unica via di accesso e di entrata alla valle in questo momento. L'altra, 1000 metri, ha altre difficoltà ed è stata chiusa per lavori di manutenzione della protezione civile. Una cosa alla volta, ma sistemeremo anche questa cosa. Personale dell'EDR, ente di decentramento regionale, e ditte esterne al lavoro per tutta la notte e la mattinata per ripristinare la viabilità. C'è ottimismo per l'apertura della strada già dal pomeriggio. Il versante sud del Monte Staulizze è ormai fragile. Episodi come questi non sono rari. Gianni Burba, ingegnere dell'EDR. L'incendio ha messo a nudo il suolo e adesso la pioggia fa facile potere erosivo, si formano queste colate detritiche, il materiale arriva in strada. I lavori sulla provinciale, quasi 8 km, continuano. La settimana prossima è previsto il dimezzamento del tratto semaforico. La manutenzione del territorio ha costi significativi. Per ogni chilometro di barriera paramassi ci vogliono 1.800.000 euro. La regione ha già stanziato 4,5 milioni, ma con tutta probabilità serviranno altri fondi per ultimare la messa in sicurezza, anche di un tratto di 500 metri che resta ancora da sistemare dopo l'incendio del 2003. Resiutta, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel Pordenonese a Clauzetto c'è uno smottamento importante sulla viabilità principale di accesso che richiede interventi di messa in sicurezza. La strada comunque è riaperta, si registrano alcune criticità nell'acqua potabile in Val d'Arzino e nel Cividalese. Ai cittadini di alcuni comuni viene sconsigliato l'uso dell'acqua a scopo alimentare. È stata riaperta, ma necessita di interventi di pulizia e messa in sicurezza la strada principale di accesso a Clauzetto dalla pianura invasa da fango e vegetazione a causa di uno smottamento nella notte. Il sindaco di Clauzetto, Giuliano Cescutti. C'è necessità di intervenire subito, perché se dovessero tornare piogge di quel tipo con un versante di questo genere, qui continua a scendere fango, terra e con loro piante e tutto quello che c'è sopra. Le forti piogge hanno anche causato fenomeni di torbidità dell'acqua, in particolare in Val d'Arzino. Mauro Trevisano è direttore operativo di Idrogea. Noi oggi, comunque, anche per evitare qualunque problema, abbiamo anche avviato delle cisterne per caricare il serbatoio per il CRO, proprio per evitare, proprio in questo caso, di garantire l'acqua potabile, assolutamente, per evitare qualunque rischio per il CRO. A Cividale del Friuli, Moimacco, Premariaco e Buttrio è sconsigliato l'utilizzo dell'acqua a scopo alimentare. 400 sacchetti d'acqua saranno messi a disposizione dell'acquedotto Poiana con il supporto di CAFC per l'ospedale e la casa di riposo di Cividale. Nella notte, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti a Pinzano per soccorrere due turisti di nazionalità belga ignari dell'allerta meteo rimasti bloccati con il loro camper nel greto del fiume Tagliamento. Complesso l'intervento con il gommone dei soccorritori fluviali a causa della forte corrente. I due turisti con il loro gatto sono stati portati in salvo in buone condizioni di salute dai pompieri che hanno utilizzato dei vincoli di corde sfruttando la vegetazione presente. Poche ore dopo altri due turisti tedeschi sono stati portati in salvo dopo essere rimasti bloccati con il loro fuoristrada nel greto del Tagliamento in comune di Valvasone Arzene. A Pordenone nel frattempo sta scendendo il livello del Meduna mentre resta osservato il Noncello e cui livelli si stanno alzando. L'assessore all'ambiente Mattia Tirelli. Sul Meduna il picco di piena è arrivato questa mattina presto verso le 5 e adesso è in corso di deflusso, mentre il Noncello è in fase di aumento e prevediamo nel pomeriggio il picco di piena. Diciamo che al momento quello che possiamo affermare è che sembra simile questi due picchi a quelli di 3 giorni fa. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nelle prealpi friulane, a Forgaria nei Friuli, notte difficile con smottamenti, frane, allagamenti di strade e abitazioni. Una notte da incubo a Forgaria nel Friuli. Smottamenti, frane, allagamenti hanno impegnato gli uomini della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il territorio. Isolata la frazione di Cornino, evacuata una famiglia, chiusa la strada per Cornino che collega a Forgaria, chiusa la provinciale verso la Val Garzina. Sopralluogo con i tecnici della Protezione Civile regionale e EDR per una valutazione dei danni. Intanto Vigili del Fuoco e Protezione Civile lavorano per il ripristino, ove possibile, della viabilità. Per San Daniele viabilità deviata per il ponte di Pinzano e Ragogna. Il sindaco Pierluigi Molinaro ha intanto firmato un'ordinanza di chiusura delle scuole per domani. A Trasaghis, frazioni allagate, è sondata la roggia, tanti disagi per gli abitanti. Forgaria del Friuli, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste la Pineta di Barcola è sott'acqua a causa delle mareggiate, le ondate lungo il litorale lambiscono quasi la strada. Una situazione che di riflesso sta condizionando il traffico in entrata nel capoluogo regionale sulla strada costiera, dove si registrano rallentamenti. E i vigili del fuoco di Pordenone sono impegnati in operazioni a Brugnera, San Vito, Fiume Veneto e Prata per la messa in sicurezza delle coperture a case ed edifici aziendali già colpiti dal maltempo della scorsa estate e a suo tempo ricoperti da tele impermeabili, da cui ora provengono infiltrazioni idriche a causa del forte vento. Il cielo è nuvoloso su tutta la regione, le temperature a Trieste e Gorizia 16 gradi, a Udine e Pordenone 15, a Tolmezzo 11, a Tarvisio 9 gradi, a Forni di Sopra 6, a Piancavallo 5, a Sappada 4 gradi, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari 2 gradi, a Grado Lignano 17. Sotto il profilo meteo il peggio è passato, anche se rimangono piogge residue. Con il meteorologo dell'ARPA Francesco Sioni cominciamo facendo il punto su quanta pioggia è caduta stanotte. In questo momento rimane della residua instabilità sulla regione e la fase principale di maltempo è passata. Fino a stasera quindi avremo dei residui temporali principalmente sulla fascia montana e a destra. Nella notte sono caduti oltre 300 mm di pioggia? Sì, durante la notte abbiamo avuto delle piogge intense che hanno interessato tutta la fascia prealpina con cumulati medi attorno ai 250 mm, però con picchi appunto attorno ai 300 mm a Piancavallo e a Ucea, raggiunte anche raffiche massime di vento molto elevate fino a 162 km all'ora sul Matajur, ma anche sulla costa Scirocco, che tra Lignano, Grado e Trieste ha raggiunto i 90 km all'ora. Quindi adesso c'è una pausa, ma domani sera torna il maltempo. Sì, domani mattina avremo maggiore presenza di sole sulla regione e da domani pomeriggio però, e in particolare nella notte tra sabato e domenica, un ulteriore peggioramento con piogge diffuse sulla regione e rovesci che saranno più insistenti sulla fascia montana e in particolare sulla fascia orientale della regione. E anche il vento sarà sostenuto sulla costa da sud-ovest con possibilità di nuovo di mareggiate e acqua alta. Ma poi si stabilizzerà un po' il meteo? Da lunedì la serie di fronti decisi che hanno interessato la regione nelle ultime settimane sembra interrompersi, quindi non entreremo in un regime di totale stabilità, però sembra che la fase di maltempo principale sia passata. Lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro, di proprietà di Birra Castello S.P.A., proprietaria dello storico birrificio di Pedavena, è stato ceduto alla multinazionale Gruppo Royal Unibrew, secondo quanto già annunciato la scorsa estate. Birra Castello S.P.A. continuerà a mantenere la proprietà di tutti gli attuali marchi del gruppo, cioè Birra Castello, Birra Dolomiti, Pedavena, Superior e Alpen, e proseguirà nella strategia di potenziamento e sviluppo dello stabilimento bellunese, stimata fino a 1 milione di ettolitri all'anno, la capacità di produzione di birra potenziale dello stabilimento di San Giorgio, in cui aziende e organizzazioni sindacali hanno garantito ai lavoratori coinvolti nel trasferimento, circa 140, le condizioni contrattuali in essere. Aveva un magazzino per lo stoccaggio della droga anche a Pordenone, una delle due organizzazioni criminali sgominate dalla direzione distrettuale antimafia di Torino. Oltre 800 chili di droga sequestrati dalla Guardia di Finanza piemontese, che ha arrestato 13 persone di origine marocchina. Le gang erano specializzate nel traffico di stupefacenti, hashish in particolare, tra le piazze di spaccio anche il Friuli Venezia Giulia. Sentiamo il servizio dalla redazione di Torino, Manuela Gatti. L'hashish importata dal Marocco a Torino, passando per la Spagna, nascosta in cantine e garage del capoluogo e dell'Interland, e da lì smerciata non solo nel torinese ma in tutto il nord Italia, a Pordenone, altro snodo della rete dello spaccio, e poi nelle province di Venezia e Treviso, di Milano e Varese, e ancora in Toscana, nella zona di Pisa. Un business svelato dalla Guardia di Finanza di Torino, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sequestrati 800 chili di droga, spacciata al dettaglio, avrebbe fruttato almeno 11 milioni di euro. 13 persone, quasi tutte originarie del Marocco, sono finite in arresto. Fanno parte di due diversi gruppi di trafficanti, autonomi ma con lo stesso modus operandi e le stesse caratteristiche. In primis, ampie risorse finanziarie che rendevano possibile la costosa catena di operazioni, l'import dell'hashish dal Nord Africa alla Spagna, il trasporto su strada fino a Torino e infine lo smercio a bordo di auto modificate con appositi doppi fondi. Entrambe poi organizzazioni ben strutturate, con depositi di droga disseminati sul territorio, in cantine e anche in garage di insospettabili condomini. La disoccupazione giovanile, la lontananza da motivazioni che appassionino, la necessità di essere solidali, nell'omelia del vescovo di Trieste Enrico Trevisi, nella messa celebrata questa mattina nella cattedrale di San Giusto in onore del patrono cittadino. Il vescovo ha annunciato per domenica 5 novembre sul Molo Audace un momento di preghiera interconfessionale. San Giusto lo penso come un giovane che ha dato la vita, che è stato legato a grosse pietre, ma che è vivo. Monsignore Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, nella sua omelia, nella ricorrenza del santo patrono della città, parla dei giovani, dell'alto tasso di disoccupazione in Italia, 1 su 5 senza lavoro. Nei primi mesi del 2023 il tasso di disoccupazione giovanile è al 21,7%. In Italia la spesa in istruzione supera di poco il 4% del PIL. Succede tutto questo in una società che si limita a condannare i giovani, a lamentarsi di loro, dice Monsignor Trevisi. L'esortazione del vescovo è anche ad avere qualcosa per cui spendersi, per cui impegnarsi. San Giusto, sottolinea, insegna che c'è qualcuno a cui consacrare la vita, renderla piena di senso. E parla anche di suicidio assistito, promosso come legge per avere il consenso politico. Infine, un messaggio e un'iniziativa importante in questo giorno di ricorrenza. Domenica 5 novembre al Molo Audace, con il rabbino capo di Trieste, il presidente della comunità islamica e con altre confessioni religiose della città, il vescovo, rivolgendosi al mare, verso il Medio Oriente, osserverà 15 minuti di silenzio. Una preghiera per gridare nel silenzio il dolore di tanti uomini e donne che piangono per le immani violenze che stanno insanguinando i popoli. A tutti l'invito del vescovo Trevisi a partecipare. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il San Giusto d'Oro 2023 va all'Università degli Studi di Trieste, la targa speciale ad Andreina Contessa, direttrice del Castello e del Parco di Miramare. Lo ha deciso l'Asso Stampa FVG, articolazione territoriale della Federazione Nazionale Stampa Italiana, il sindacato unitario dei giornalisti, che organizza il premio, nato nel 1967 su iniziativa del gruppo Giuliano Cronisti, con la collaborazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CRT. Trieste. In questi tempi tragicamente segnati da quella che Papa Francesco ha chiamato la terza guerra mondiale a pezzi, spiega Carlo Muscatello, presidente Assostampa FVG, siamo sempre più convinti che l'unica speranza di futuro, di progresso, di pacifica convivenza fra i popoli possa venire dalla conoscenza, dalla cultura e dallo studio. Per questo il Sindacato regionale dei giornalisti ha deciso di assegnare il premio all'Ateneo Triestino nell'anno accademico del suo centenario, che cadrà nel 2024. La targa d'Andreina Contessa, ha aggiunto Muscatello, premia una professionista che in pochi anni di lavoro ha saputo far rinascere uno dei simboli di Trieste, il parco e il castello di Miramare. La cerimonia di consegna del premio e della targa si terrà nelle prossime settimane. Mozart, Bach e Schumann, gli autori al centro del recital della pianista canadese Angela Hewitt, che ha dato il via ieri sera alla stagione della Fazioli Concert Hall di Sacile. L'energia di tre campioni della tastiera orgogliosamente impegnate a dimostrare tutte le loro doti, circola aria di famiglia tra le pagine scelte da Angela Hewitt per inaugurare la stagione della Fazioli di Sacile. Un concerto partito dalla Fantasia e sonata in do minore di Mozart, un lavoro della piena maturità del musicista di Salisburgo, risolto dalla pianista canadese con potenza di suono e insieme delicatezza di sfumature. Al centro del programma uno storico cavallo di battaglia di Hewitt, la Fantasia cromatica e fuga in re minore di Bach. Anche questa è una pagina piena di energia e spavalderia incanalate in rigorose regole musicali. E lo stesso in fondo si può dire della sonata in fa diesis minore di Schumann che ha chiuso il programma. Musica insomma che oltre alla tecnica e al cuore richiedono anche intelligenza, una dote che questa grande interprete ha dimostrato ancora una volta di possedere in sommo grado. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni eventi e appuntamenti in regione sono stati cancellati nelle aree di allerta meteo rossa, cioè nelle ex province di Pordenone, Udine e Gorizia. Tra questi la cerimonia di intitolazione del Teatro Comunale di Monfalcone a Marilena Bonezzi e il successivo concerto del pianista Elia Cecino con la Friuli Venezia Giulia Orchestra rimandati a data da destinarsi. Si è aperta invece questa mattina a Trieste la manifestazione Cioccolatiamo, che fino a domenica proporrà assaggi e acquisti oltre alla dimostrazione dal vivo della produzione del cioccolato, incontri con maestri cioccolatieri, laboratori per bambini. Segnaliamo ora alcuni appuntamamenti culturali di oggi. Un anno di scuola di razzismo nella Gorizia in camicia nera, il libro di Ferruccio Tassin, che sarà presentato a Tor Viscosa al Bar Circolo in piazzale Marinotti alle 18. Tra le pagine il racconto della scuola fascista in cui si insegnava il razzismo e la supremazia del più forte e che preparò la guerra a venire con la retorica della guerra appena conclusa. La poetessa veneziana Isabella Panfido presenterà il libro Lagunario, viaggio nell'anima di chi ama la sua terra natia, a Monfalcone nella sede della Lega Navale Italiana alle 18. Giorgio Streller, l'uomo che cambiò il teatro del Novecento, l'incontro del ciclo ritratti e testimonianze dell'Italia civile dell'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, a cui interverrà Cristina Battocletti, attrice del volume Giorgio Streller, il ragazzo di Trieste, vita, morte, miracoli. Appuntamento a Udine al Teatro Nuovo alle 17:30. È tutto per questo notiziario condotto e redatto da Maria Spezia e Francesca Vigori con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Mauro Cumin e quella in redazione di Samantha Gon. Grazie per la vostra cortese attenzione. L'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.